Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Sbadigli, stanchezza o torpore alla guida possono essere capitati a ognuno di noi. Un rischio notevole per la sicurezza stradale, visto che secondo alcune statistiche almeno un incidente su 5 sarebbe causato da eccessiva sonnolenza. È questo lo scenario in cui è stata recepita in Italia la direttiva europea sul rinnovo delle patenti di guida, che dispone un'attenzione particolare a chi soffre di disturbi del sonno, causati spesso dalle cosiddette apnee ostruttive notturne. La sindrome da apnee ostruttive notturne è una delle malattie del sonno più diffuse, caratterizzata da ripetuti episodi di pause della respirazione durante il sonno che rendono più difficile il riposo, causando così grave sonnolenza diurna. Sulla base della direttiva dell'Unione Europea, quindi, chi è affetto da questi disturbi o chi si sospetta ne soffra, dovrà seguire un iter speciale per il rilascio o il rinnovo della patente di guida, prevedendo, fra le altre cose, una serie di visite mediche di accertamento e l'inizio di una terapia. E in ogni caso la validità della patente sarà limitata, non più di 3 anni per le patenti del gruppo A e B, non più di 1 per quelle professionali del gruppo C e D. Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, in realtà oggi ci occuperemo di un argomento che riguarda non solo chi si occupa di trasporti, ma tutti i possessori di patente di guida, perché è stata recepita anche in Italia una direttiva che avrà delle conseguenze importanti sugli utenti della strada. Ne parliamo con Sergio Garbarino, docente presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova e che il problema delle apnee ostruttive del sonno lo sta seguendo da anni. Dottor Garbarino, innanzitutto cosa prevede questa direttiva europea e come è stata recepita in Italia? Ma guardi, la direttiva europea implica che tutti i soggetti che sono affetti o diagnosticati o sospettati di essere diagnosticati di questa sindrome dell'apnea cronica ostruttiva, o detto meglio OSAS, siano sottoposti a un approfondito controllo medico e associato spesso al controllo anche della sonnolenza diurna, che è uno dei sintomi principali. Come dicevamo prima, questo è un sintomo che molto spesso noi abbiamo, chi una volta nella vita non ha avuto un colpo di sonno alla guida dell'auto, ma quando capiamo che si tratta di un problema patologico? L'OSAS è la principale causa medica di sonnolenza, ma giustamente la famosa sonnolenza, quello un quinto che diceva lei dei colpi di sonno, non è dovuto solo all'OSAS, ma a tante altre cause, di altre malattie ovviamente, e in particolare a errati stili di vita. Questo è importante che si sappia, cioè l'addebito di sonno che noi accumuliamo per errati stili di vita, per il lavoro anche, determina spesso e volentieri tutta quella sintomatologia che porta una riduzione alla vigilanza fino ad arrivare alla sonnolenza, se non proprio alla fine al colpo di sonno. Quindi non dobbiamo dimenticare che è possibile curare, diagnosticare questa malattia e guarirla, però può rimanere la sonnolenza perché è dovuta da altre cause. Certo, da altre cause. Come abbiamo detto prima, questa direttiva è stata recepita in Italia con un decreto, ma siamo in attesa dei decreti attuativi del Ministero della Salute. Ecco, lei ha partecipato, è stato componente della commissione che ha licenziato questi decreti già firmati e che saranno pubblicati a breve in Gazzetta Ufficiale. Ci può anticipare un po' i contenuti, cioè come questa direttiva cambierà la vita degli utenti italiani? Mettiamoci semplicemente nei panni di una persona qualsiasi che, da quando ci saranno poi questi decreti, saranno attuati, dovrà presentarsi da un'autoscuola all'ACI piuttosto che alle ASL, certo, alle ferrovie, infatti, a fare un rinnovo. Benissimo. incontrerà il classico medico monocratico, cioè il medico certificatore, e il medico certificatore la prima cosa che farà le chiederà se effettivamente è affetto o non affetto da OSAS. Ma in questo caso, ed è questa forse l'innovazione, cercherà di valutare se il soggetto ha un sospetto, anche se la persona in questo caso dovesse negarlo, perché questa patologia spesso si associa ad esempio a obesità, si associa a diabete, a malattie cardiovascolari, a fibrillazione atriale, quindi abbiamo tutta una serie di patologie che già sono da anni all'interno di questo questionario che vengono in qualche modo recepite dal medico monocratico. E le domande che farà il medico monocratico, questa è una grande anticipazione, chiamiamola così, chiederemo se russa, questo russamento è rumoroso e abituale tutte le notti, se è persistente da almeno circa 6 mesi, che in maniera intermittente si accompagna a delle apnee notturne, questo è soprattutto riferito ai partner di letto, cioè alla moglie, eccetera. Certo, che può testimoniare questo evento. La sonnolenza diurna famosa. Mm. Ecco, bene, questi 3 pilastri sono lo strumento diciamo clinico, anamnestico, che ha in mano il medico certificatore. Se poi è positiva per queste cose, insieme a quei altri segni che l'avevo detto poc'anzi, c'è la possibilità di somministrare un questionario di 6 brevissime domande sulla sonnolenza diurna, ovviamente, a seconda della risposta di queste domande, se il soggetto si presenterà a basso rischio, la patente verrà data, se invece sarà medio rischio, potrà il medico monocratico, su sua discrezione, decidere se inviare o non inviare alla commissione medico locale, che è un organo superiore provinciale, oppure se ad alto rischio, a questo punto, obbligatoriamente il medico monocratico deciderà di inviare alla commissione medico locale. E a questo punto la commissione che cosa dovrà valutare di questo soggetto? La commissione approfondirà e cercherà di vedere se il sospetto che è stato posto dal medico certificatore è reale o meno, e poi la valutazione dei tempi di reazione acustici e visivi semplici e complessi, che sarà una sorta di test di vigilanza molto, diciamo così, specifico. A questo punto, se positivo anche in questo caso, ovviamente il medico legale invierà il nostro autista ad un centro, a un esperto di medicina del sonno, esperto in questo ramo ovviamente, per poter curare il soggetto. Ovviamente. C'è da dire però che tutto questo influirà anche sulla durata di validità delle patenti nel momento in cui scatta questo tipo di diagnosi. Esattamente. I tempi di controllo successivo, diciamo, delle idoneità non saranno più gli stessi e saranno suddivisi a seconda del tipo di patente che uno ha. Cioè, vale a dire che se uno appartiene al gruppo 1, come penso io e lei, cioè patente per motociclo o automobile, sarà ogni 3 anni, indipendentemente ovviamente per verificare lo stato di salute del soggetto, e ogni anno per gli autotrasportatori, nel caso appartengono quindi al gruppo 2, patenti C, D, E, eccetera. Come abbiamo ascoltato, i riflessi sui possessori di patenti e soprattutto sui possessori di una patente professionale, come ad esempio gli autotrasportatori, sono davvero pesanti. Quali sono le ripercussioni su questa categoria? Lo chiediamo a Claudio Donati, segretario generale di Assotir. È chiaro che siamo di fronte ad una problematica che per un verso non è discutibile, nel senso che ci sono disposizioni normative europee e adesso nazionali che hanno, diciamo, preso di petto un problema che è giusto, perché attiene alla questione della sicurezza, che come tale, diciamo, consideriamo tutti un punto non negoziabile. È evidente che per il settore, diciamo, c'è un impatto in termini di appesantimento sia degli adempimenti sia probabilmente anche in termini economici non indifferente, perché già il fatto che annualmente la patente professionale debba sottoporsi a questo appuntamento, che vedremo di capire meglio in che termini sarà formalizzato, diciamo, da parte del diretto interessato, autista o titolare che sia, diciamo, il conduttore del veicolo, e questo, insomma, evidentemente è un fatto nuovo che impegna in ogni senso l'azienda e i diretti interessati. Dal suo osservatorio privilegiato, quanto è forte, quanto è presente questo fenomeno all'interno della categoria? Io ho l'impressione che siamo di fronte ad un fenomeno sottovalutato nelle dimensioni, nel senso cioè che mi pare che i dati generali dicono c'è un 4-5% di italiani che soffre di questo tipo di problema. Io devo dire che noi abbiamo una percezione, diciamo, diretta di segnalazioni, di situazioni molto molto bassa, diciamo, direi forse addirittura più bassa del 4 o del 5%, però questo io penso che onestamente, come dire, significhi poco, perché credo che sia un tipo di problematica che di per sé mi sembra, come dire, un fenomeno piuttosto latente, di cui quando si ha la percezione probabilmente già è troppo tardi. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.